A bordo campo di Dario Ricci. Il coinvolgimento democratico dei supporters presso le società sportive in Italia e in particolare direi presso il calcio italiano ed europeo. Di questo oggi parliamo a Radio 24 qui a bordo campo perché parliamo di Supporters Direct Europe, la rete europea sostenuta dall'UEFA e dall'Unione Europea, dalla stessa Unione Europea, per agevolare, favorire l'ingresso dei supporters, chiaramente quelli sani, la parte buona del calcio europeo, nei processi decisionali dei club del football nostrano. Direi argomento stuzzicante perché di questa democrazia, visto come vanno soprattutto i conti del calcio continentale, si sente davvero il bisogno. E allora ne parliamo oggi con tanti ospiti, a partire da Diego Riva, l'avvocato Diego Riva, consulente legale di Supporters Direct Europe. Benvenuto, avvocato Riva. Grazie Dario per l'invito innanzitutto e un saluto a tutti i tuoi spettatori. Allora, avvocato Riva, dicevamo Supporters Direct Europe, questa rete sostenuta da UEFA e Unione Europea per rendere i supporters del calcio parte attiva delle decisioni dei club che gestiscono il gioco più bello del mondo. Ecco, in cosa consiste, brevemente perché il tema è complesso, questa rete? Supporters Direct inizia le proprie attività alla fine degli anni 90 in conseguenza dei famosi eventi anche di violenza e di crisi del calcio inglese. Una riflessione complessiva che ha portato da un lato i supporter, dall'altro lato le istituzioni a riflettere su un diverso modo di vedere il calcio. Questa attività si è poi consolidata nel corso dei due decenni successivi per arrivare all'attenzione delle autorità europee, in particolare della UEFA, che ha finanziato uno studio negli anni 2006, 2007 e 2008 per verificare se un modello diverso di approccio del dialogo e del ruolo dei tifosi all'interno del sistema calcio in un complesso molto più ampio potesse essere realizzato in tutta Europa. Le chiedo subito però, stiamo parlando del tifo sano, dei supporter sani, niente a che vedere con gli ultra, cui chiaramente UEFA, Unione Europea, ma tutti noi siamo pronti a dar battaglia per tenerli ben lontani dalle nostre curve, no? Nulla ovviamente a che vedere con la violenza, anche se in realtà non ci sono categorie di tifosi etichettabili come violenti o non violenti, spesso anche in altri settori dello stadio si respirano, se non atti, perlomeno anche dei comportamenti, degli atteggiamenti violenti. In tutta Europa tra l'altro si osserva che i gruppi che in partenza e poi anche nello sviluppo hanno un maggior appeal, una maggiore e poi anche attecchimento sul territorio sono quelli in cui invece queste iniziative sono nate dai tifosi, diciamo, appassionati e anche in alcuni casi in gruppi di ultras. Una prima obiezione facendo io, in questo caso l'avvocato del diavolo, qualcuno potrebbe dire: ma in fondo i club sono dei magnati, sono delle società che ci investono, che ci mettono i soldi, perché i supporter, pur con le migliori intenzioni, dovrebbero far parte dei processi decisionali? Questa è la domanda che va proprio a centrare il nocciolo del problema. Quando ci si chiede a chi appartiene una società di calcio, la risposta che in realtà, se uno riflette, viene spontanea: non appartiene certo al proprietario di turno, non appartiene certo ai giocatori, all'allenatore, non appartiene allo stadio. A chi appartiene? Appartiene a coloro a cui lo stadio vanno, appartiene ai tifosi. Questa è la domanda vera a cui rispondere. Certo, sembra un'affermazione un po' fuori dalle righe, forse di tipo utopistica o rivoluzionaria, ma se uno pensa qual è il vero valore che viene nel gioco del calcio, nello spettacolo del calcio, è il valore che viene portato poi da chi questo spettacolo usufruisce, di chi questo spettacolo partecipa. Quello che è stato dimostrato e provato in studi e riflessioni è che in realtà ascoltare e avere un dialogo e ascoltare le istanze e coinvolgere nei processi decisionali, delle volte anche proprietari delle società di calcio, consente meglio a individuare quali sono i termini del problema e quali sono veramente i fondamentali del calcio. Diciamo che al di là di quelli che sono gli investimenti economici, emotivamente è inevitabile considerare un club calcistico come una società compartecipata, perché il carico di emozioni sane che arrivano dalla parte sana del tifo, beh, quello è davvero un valore aggiunto in qualsiasi voce di bilancio. Avvocato Riva, le chiedo ancora, dalle sue parole mi viene in mente il tanto sbandierato modello spagnolo. Tutti, quando le cose qua in Italia vanno male, guardiamo ai campi dell'Inghilterra e al Real Madrid, al Barcellona e chi più ne ha più ne metta, per esemplificare il modello di polisportiva ideale in cui i cosiddetti soci decidono e come, attraverso il loro voto. È quello il modello da seguire, oppure quali sono le controindicazioni? Il modello da seguire è senz'altro un modello di partecipazione in cui si tenga conto di tutti quelli che vengono definiti gli stakeholder, in questo caso del gioco, del sistema. Quando si pensa alla partecipazione dei tifosi viene, come dicevi tu, immediatamente spontaneo il riferimento a modelli quali Barcellona e Real Madrid. Per chi non lo sapesse, Barcellona e Real Madrid insieme allo Osasuna e all'Atletico Bilbao sono le quattro squadre che nel 92 si salvarono dalla forzosa trasformazione delle associazioni di persone in società di capitale imposta dalla legge spagnola, come avvenne prima in Italia, alle società di calcio. In Spagna questo obbligo era solo per le società che avevano un patrimonio netto negativo, si salvarono quindi storicamente quelle quattro. C'è da chiedersi però se è vera partecipazione, la partecipazione dei tifosi che si trovano ad avere poche scelte, perché si tratta di scegliere tra chi ha delle disponibilità economiche significative per sostenere determinati modelli di business del calcio. Quello che osserviamo è che in Spagna, dove i tifosi hanno istanze molto simili a quelle italiane, le istanze di partecipazione paradossalmente, certo, ci sono in questi grandi club, ma ci sono soprattutto in quei club che non si sono salvati dalla trasformazione da associazioni attualmente ancora possedute da tutti i tifosi in società di capitali, in cui i tifosi recriminano e pongono l'istanza di avere una voce in capitolo nei processi decisionali del calcio. E perché questa istanza comune in tutti i paesi? Perché in realtà il calcio non è esclusivamente un fenomeno economico, perché se io sono affezionato e seguo una squadra di calcio, non è questa passione intercambiabile col seguito, con la passione per un'altra squadra di calcio. Avvocato, tempo che è tiranno anche qui a bordo campo, e allora le chiedo sinteticamente, abbiamo analizzato in qualche modo le contraddizioni del modello spagnolo, chi è che fa meglio allora in Europa, chi guardare? Se dobbiamo guardare a un modello emblematico come gestione complessiva, direi i paesi in cui c'è un equilibrio complessivo dei fattori. Il fattore tifoso, il fattore tifo, il fattore passione è uno e a mio giudizio è il fondamentale, ma non è l'unico elemento che contribuisce alla salute di un sistema. Modelli quali quello austriaco, quello tedesco, quello svedese, in cui vi è un controllo delle società di calcio da parte dei tifosi, portano, e questo lo dimostrano i numeri, a un equilibrio finanziario complessivo, perché stadi pieni, passione piene, vuol dire attrazione degli sponsor, vuol dire un equilibrio complessivo del sistema, anche in termini di solidarietà e di ripartizione quindi delle risorse collettive, dei ricavi da biglietteria e da sponsorizzazione, che contribuisce a un sistema complessivamente più sano. Ovviamente poi in tutti i paesi ci sono le tensioni e in tutti i paesi ci sono diverse difficoltà. Lo stato dell'arte in Italia, vado a memoria, ricordo alcune esperienze a Venezia, a Taranto, Ancona, ecco, a che punto siamo, chi è che sta facendo meglio? In Italia si osserva un'interessante vivacità negli ultimi anni. Quando il progetto europeo è iniziato 5 o 6 anni fa, nessuno avrebbe scommesso su una possibile possibili gruppi di tifosi che in Italia si ponessero queste istanze di un diverso ruolo dei tifosi nel sistema complessivo calcio. Invece i fatti hanno fortunatamente smentito queste previsioni, perché in realtà dal 2009-2010 vi sono più una decina di gruppi di tifosi che si sono organizzati per poter porre queste istanze. Club delle più diverse divisioni, dalla Serie A per esempio come Roma, fin dalla terza categoria, l'esperienza dell'anno scorso di Aquilotto Cavieve. Le diverse realtà scontano chiaramente difficoltà culturali, di percorso, storiche, economiche diverse dagli altri paesi. Cito due casi emblematici per i risultati raggiunti grazie anche sia alla bravura, alla testardaggine e alla competenza dei tifosi, ma anche per questioni storico e fattuali che sono verificati, come Ancona Taranto, in cui i tifosi hanno conquistato non solo una quota di capitale sociale, ma anche il diritto, che non dipende dalla quota di capitale sociale posseduto, di avere due rappresentanti nel consiglio di amministrazione, proprio come amministratori della società di calcio, e diritto di veto su alcune scelte fondamentali che vanno al cuore della passione, che sono marchio, sede sociale e colori della propria società di calcio. Ma arriveremo mai, avvocato, a una partecipazione di questo tipo, o magari anche maggiore, in un club di Serie A? È auspicabile che si arrivi. Chiaramente le dinamiche sono completamente diverse e non si può pensare di azzerare una storia o di inventare dei modelli che in realtà molto probabilmente è difficile da riproporre nel nostro paese. Sicuramente se si pensa a quali sono i valori fondamentali del gioco, partendo con un diverso approccio, un diverso dialogo tra il tifoso che sente la squadra come sua, il club, le istituzioni calcistiche, è possibile trovare dei modelli compartecipativi nelle decisioni che attengono alla vita della società del calcio e del club, che sicuramente ritengo potranno essere interessanti. Ricordiamoci che negli altri paesi, in qualsiasi categoria e in qualsiasi divisione, è stato possibile realizzare questo. In Inghilterra non ci sono solo le realtà tra virgolette minori a cui solitamente ci si pensa, ma c'è anche un caso da quest'anno in Premier League, che è lo Swansea, in cui i tifosi hanno il 20% del capitale sociale e il diritto anche in quel caso di nominare degli amministratori. Credo che sia possibile realizzare tutto questo anche in Italia. E allora, avvocato Diego Riva, grazie per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo nel suo ruolo di consulente legale della rete di Supporters Direct Europe. Condividiamo anche qui a Bordo Campo il suo ottimismo. Intanto facciamo una brevissima pausa per il traffico, poi continuiamo a parlare di Supporters Direct Europe con alcuni protagonisti supporters sul campo e nelle società europee. Grazie a te e grazie a tutti i tuoi ascoltatori. A Bordo Campo. I tifosi del calcio europeo sempre più partecipi della vita dei grandi e piccoli club del vecchio continente. Questo è il tema della puntata di oggi di A Bordo Campo. Stiamo un po' analizzando in che modo, anche sotto l'impulso dell'Unione Europea, i tifosi, la parte sana chiaramente del tifo, sta entrando sempre di più nel processo decisionale dei grandi club del calcio europeo. E allora andiamo subito a sentire le storie dei protagonisti. Ci spostiamo in Austria, nostro primo ospite è Thomas Gassler, coinvolto in molteplici progetti di calcio sostenibile, membro del football club Wacker Innsbruck, che è stato rifondato dai tifosi sulle ceneri dell'antico Wacker Innsbruck. Ebbene Thomas, nel 2002 tutto sembrava perso, la squadra era fallita, poi grazie anche al contributo di voi tifosi, ecco che siete tornati protagonisti della serie austriaca. Raccontaci un po'. Sì, proprio così. Nel 2002 siamo falliti con debiti di 60 milioni euro. Abbiamo vinto tre scudetti nel 2000, nel 2001, nel 2002, ma dopo il fallimento abbiamo dovuto ricominciare proprio in terza categoria, senza i soldi, senza staff. Il nuovo club deve essere un'associazione sportiva con i membri, perché i membri sono quelli che fanno l'organo di controllo del club. E questo era una grande cosa nuova, perché il club prima non era un'associazione per i membri. E così dal 2003-2004 è stato possibile per i tifosi di partecipare nel club. Noi abbiamo subito lavorato insieme ai club, abbiamo fatto tante tante cose insieme, come la nuova, decidere della nuova identità, parlare del nuovo nome, come facciamo la comunicazione tra il club e i tifosi. Così il Wacker Innsbruck è diventato uno dei club in Austria dove protagonisti, tifosi. Ti chiedo, avevate rischiato anche con il fallimento che i nuovi proprietari imponessero di cambiare i colori addirittura sociali, no? Il problema era che noi abbiamo deciso tutto rapido, abbiamo deciso di un nome sbagliato, che era una combinazione di FC Tirol e FC Wacker Innsbruck, ma noi siamo tifosi di tradizione e abbiamo voluto il vecchio nome, FC Wacker Innsbruck, il vecchio stemma proprio del 1913, diciamo non è andato tutto senza complicazioni, ma in 2-3 anni siamo riusciti di parlarne insieme col presidente del club e con il club management, e noi abbiamo lavorato insieme 5 anni per la nuova identità del club. Abbiamo la possibilità che due persone dei tifosi sono nella rappresentanza del club, abbiamo la possibilità che lavoriamo nel club management, noi tifosi facciamo il sito internet per il club, noi tifosi facciamo il merchandise per il club, tutto insieme, tutto senza fare i soldi per noi, è tutto per siamo volontariati per il club. Quali sono i prossimi obiettivi? Quest'anno abbiamo il centenario, 100 anni Wacker Innsbruck, purtroppo siamo quasi all'ultimo posto, quindi il nuovo obiettivo è non retrocedere in Serie B. E allora soprattutto forza Wacker Innsbruck, in bocca al lupo, salviamoci. Salviamoci, grazie. Grazie a Thomas Gassler da Innsbruck. Ci spostiamo in Inghilterra, dove troviamo una donna, un'appassionata di calcio ma anche una fattiva collaboratrice della rete dei trust dei tifosi europei, Wanda Wilcox. Benvenuta a bordo campo. Beh, allora Wanda, raccontaci un po' dell'esperienza che voi tifosi state vivendo in Inghilterra come protagonisti della vita dei grandi club del calcio inglese. Veramente ci sono parecchie, di tutti i livelli del calcio, e in generale come movimento è stato creato anche tramite la volontà del governo inglese, perché ci sono state talmente tante crisi, fallimenti di club, anche dei club abbastanza grandi, importanti, per esempio il Portsmouth, per citarne solo uno, o il Wimbledon, che ha comunque una storia particolare, che il governo ha voluto creare questo o sostenere questo progetto, capendo un po' che il sistema non funzionava, diciamo così, a tutti i livelli. Forse l'esempio più riuscito è quello dello Swansea, in realtà, squadra gallese, sì, allenata da Michael Laudrup, grandissimo campione, che ha vinto anche recentemente la Coppa di Lega, e in cui i tifosi, come in altre realtà, ma ancora di più in questa, hanno una parte molto attiva, vero? Sì, verissimo, questo è un bellissimo esempio, anche fino a un paio di anni fa nessuno sapeva come poteva andare a finire, che se poteva anche finire in un disastro, invece loro fanno vedere che può funzionare anche sul campo, diciamo, lo spinto dei tifosi, il coinvolgimento e anche la trasparenza, non è solo per i piccoli società che poi non riescono a vincere niente. Secondo te, per quella che è la tua esperienza, si arriverà mai ad una squadra di Premier in cui il controllo da parte dei tifosi sia maggioritario? Ma è difficile dire, perché quelli ultimamente che hanno avuto più successo sono quelli che sono stati comprati dai stranieri ricchissimi, e per ora risulta che quello sia il modello. Se basta pensare che negli ultimi anni anche una squadra come l'Arsenal risulta non avere abbastanza soldi per vincere, è difficile ora come oggi pensare una situazione così. Comunque non è detto che andrà sempre avanti così, e anche vedendo cosa succederà con il regolamento della Financial Fair Play, per esempio. Ecco, ti chiedo, a partire dall'esperienza della Premier, quali sono invece gli aspetti da migliorare di questa partecipazione dei tifosi alle decisioni e alle strategie anche economiche delle società? Una cosa molto importante da migliorare è l'atteggiamento dei proprietari e degli altri azionisti. Le Arsenal, infatti, è un esempio abbastanza interessante, perché il trust all'Arsenal è molto attivo, partecipa attivamente nel consiglio di amministrazione ed è visto come un partner, diciamo, in tutti i sensi dagli altri membri del consiglio. Un paio di anni fa c'era un'azione che è rimasta orfana di una serie di motivi complicati e la società ha deciso di regalarle questa azione anche in modo simbolico al trust. Va bene, un'azione non conta niente, comunque la scelta della società di coinvolgere attivamente il trust è un'ottima cosa. Invece, per esempio, ci sono realtà come lo Manchester United dove i tifosi non fanno nessun parte del progetto e c'è molta tensione, c'è molta crisi, c'è una continua contestazione di una parte dei tifosi che sicuramente non aiuta neanche la squadra perché non è un clima molto tranquillo. Eh sì, insomma ricordo pure il film quello con Cantona, no? Simboleggiava quanto questi proprietari americani fossero invisi alla grande tradizione del pubblico. Certo. Ti chiedo ancora, insomma, studi il calcio inglese e non solo, di quale squadra sei tifosa però? Io sono tifosa dell'Arsenal all'Inghilterra, in realtà sono più romanista. Ah, bene, quindi insomma sei pronta a scendere in campo sia in Inghilterra che in Italia. Sì, sì, speriamo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete risentirci sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi ricordo anche la nostra mail abordocampo@radio24.it e sempre sul sito trovate anche il nostro blog. In particolare poi questa settimana trovate anche su www.radio24.it tutti i segreti di un nostro grande amico Daniele Nardi, lo conoscete bene, lo scalatore che abbiamo seguito nel suo tentativo di ascesa sul Nanga Parbat. Ebbene, proprio sul nostro sito, su www.radio24.it, Daniele ci rivela alcuni dei segreti di questa spedizione. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.